persone, però logicamente non sarà il primo né l'ultimo, quindi speriamo di recuperarle più avanti. Esattamente non vedo il gruppo programmazione che dovrebbe essere Sirio. Posso fare E io qua, le veci? ma vabbè. L'importante è che se qualcuno di voi ha voglia di riportargli qualcosina, poi come primo incontro non ci sarà un granché. Speriamo su più che altro sentire delle belle reportistiche, se c'è qualcosa di nuovo da parte vostra. Vedo, non sento più, non vedo più la coordinatrice di grafiche video, che mi sembra che sia Valentina Funerò. Qualcuno di voi ha dei contatti? Io l'ho sentita qualche settimana fa, però sì, è un po' che non si fa sentire. Ok, se ha delle difficoltà spero che col tempo deleghi qualcun altro, perché insomma mi piacerebbe anche sapere tutti quanti, non solo a me, che cosa stanno combinando anche loro. E chi non vedo? Beh, Alessandra Pace, che penso che prima o poi la recupereremo tranquillamente, Pat, che forse arriverà dopo, e poi direi che tutti gli altri ci sono. Va bene, allora. Ripeto, benvenuti tutti quanti. Lo scopo di questo incontro tra i coordinatori dei vari GDL naturalmente è quello di confrontarci sulle situazioni attuali dei gruppi di lavoro, consigliarci di portare idee e metodi di lavoro da condividere con partecipanti e attivisti dei medesimi gruppi. Molto importante questa costante collaborazione. Anche con critiche costruttive, servirà per allenamento, per abituarci ed aggiornarci continuamente. Avendo costantemente la situazione di tutto ciò che stiamo sviluppando e anche per consigliarci naturalmente. Ricordiamoci sempre che vogliamo essere una comunità, quindi consentire una limpidezza in tutto ciò che sviluppiamo è un primo esempio da seguire, secondo me. Il fatto che ci troviamo questa sera in sede chiusa l'avevo già scritto nella mail, è solo per consentirci un po' di privacy, diciamo, di parlare in tranquillità. Come ripetuto precedentemente, infatti, sarete voi poi a riportare le conclusioni dei vari incontri ai membri dei vostri gruppi. Inoltre, se avete qualche difficoltà, delegate pure qualcuno, l'importante è che ci sia sempre presente una persona per ogni gruppo. E niente, io adesso gentilmente, beh, visto che i nomi li abbiamo già messi un po' tutti a posto, i nomi a fianco scritti del gruppo che fa parte, vorrei sentire in ordine, una prima reportistica su quello che state sviluppando, su alcune idee che avete in progetto, ecco. Allora, diciamo che partiamo, lo faccio per ultimo, partiamo da Daniele. Allora, io ho praticamente quasi finito il tutorial per la lampada LED, adesso sto caricando i documenti su Google Doc. Ok, quello è a posto, cioè semplicissima da costruire ed è fatto, cioè si può dire progetto concluso. Sto caricando anche alcune varianti che completerò poi col tempo, perché quella che ho fatto io prende molto tempo. Ne ho trovato altri modi per farla che prendono molto meno tempo. Poi ora sono un po' antiquato perché sono mancato una ventina di giorni, non so cosa hanno fatto esattamente. Poi vabbè, con il motore Stirling, cioè, mi aggiornerò con German, poi quando toccherà lui magari ne parlerà. Per la stampante 3D ho parlato con mio cugino. I pezzi non me li possono fare con la CNC, quindi mi toccherà per forza acquistarli. Ho trovato un buon annuncio su eBay intorno alla sessantina di euro e forse prendo quelli. Così entro 1 o 2 mesi riuscirò a concludere pure la stampante 3D. Poi, boh, non so, che per la pianta, il progetto per la lampada per la pianta è andato a buon fine, solo che la pianta si è seccata per ragioni che ho spiegato prima, ossia che non è stata innaffiata per una ventina di giorni. Però, visto che stavano crescendo comunque delle altre piantine dentro il vasetto ed erano abbastanza basse, segno che la luce arrivava in intensità giusta. Lascio la lampada disponibile per chi la vuole, cioè German e Claudio che ci stanno lavorando al progetto. Ok, molto bene. Allora, passiamo a Diana del gruppo Traduzioni. Vai pure, Diana. Ciao a tutti, non è proprio facile fare un report dei nostri progetti perché ne abbiamo tantissimi e comunque stanno procedendo sia i sottotitoli per i video che i testi. Stiamo traducendo il sito nuovo del Movimento Internazionale e il sito del Venus Project, nonché le famose newsletter che abbiamo completato ma stiamo revisionando. E questo un po' per quanto riguarda i progetti, poi diciamo che incontriamo qualche difficoltà tecnica perché chi ci aiuta deve registrarsi su certi siti e capire un po' il sistema, quindi sì. Lavoro indipendentemente, però serve sempre una certa collaborazione con gli altri e coordinazione con me per procedere nei vari progetti che ovviamente sono a stati diversi e quindi su ognuno bisogna procedere in modo diverso. Quindi è sempre importante questo fattore della comunicazione che cerchiamo di valorizzare. Ma non è sempre facile restare in contatto con tutti, quindi magari qualcuno viene agli incontri qui su TeamSpeak, invece con altri ci sentiamo solo per email, altri preferiscono la pagina Facebook e le solite cose, insomma, che sapete. Perfetto, Diana, non ti preoccupare, tieni in considerazione la prossima volta che una volta al mese abbiamo tutti da fare una piccola reportistica per, giustamente come dicevo all'inizio, sapere la situazione anche degli altri gruppi di lavoro per essere aggiornati un po' su tutto. Allora, German Gruppo Tecnologia, stasera abbiamo un doppione tecnologico, se vuoi aggiungere qualcosina, altrimenti io passo direttamente al nuovo GDL Consumo. Dimmi tu, German. Se vuoi aggiungo dopo perché ho già parlato prima. No, vai pure, vai tranquillo. Va bene, quello che si è perso Daniel che era in ferie. E ci siamo interfacciati un po' con OSE, Open Source Ecology, quindi cercheremo adesso in avanti di lavorare insieme perché credo che Open Source Ecology è parte del Zeitgeist. Cioè, uno dei primi passi che ci vuole per Zeitgeist. E stiamo cominciando anche a collaborare con gli spagnoli in progetti tecnologici anche di Zeitgeist. Stiamo lavorando anche su Linux e sull'open source e su questo si sta andando avanti. Poi stiamo mandando avanti anche i progetti di idroponica, anche a forza di far morire le piante, però quali sono gli aggiornamenti che non ha detto Daniele? Avanti, Giovanna. Ok, grazie German. Stracuoto il progetto di Open Source Ecology, che dopo magari ne parleremo anche un pochino. E niente, non è proprio lo Zeitgeist, però ci tengo a precisare che è proprio l'inizio di un'economia basata sulle risorse, il progetto che Jacopo ci ha illustrato domenica sera. Vabbè, dai, non voglio dilungarmi troppo, passo a Giovanna Marino del nuovo GDL Consumo, nato da pochissimo. Vai, Giovanna. Allora, ciao a tutti, e per prima cosa volevo ringraziarti per questa occasione, scusate ho la ventola, quindi, per questa occasione che hai organizzato per incontrare tutti gli altri coordinatori degli altri gruppi, perché secondo me è. Allora, dunque, il GDL Consumo Cosciente, questo non mi ci stava sulla scritta, quindi comunque Consumo Cosciente, questo è il nome che abbiamo deciso al primo incontro, quindi discutendo un po', facendo un brainstorming assieme, valutando i vari nomi e soprattutto cercando un nome che non andasse a chiare il nome di qualcun altro. Per esempio, Consumo Critico, c'è già un'associazione che si chiama così, eccetera. alla seconda meeting che abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo già cominciato a impostare il lavoro e ci siamo un po' resi conto che il lavoro effettivamente è enorme, vastissimo, il campo è vastissimo, per cui abbiamo deciso che partiremo con dei mini progetti. E via via, insomma, faremo tutto il resto. I prossimi 5 anni, speriamo di no, cioè, speriamo che riusciamo a farlo prima. Quindi siamo partiti col progetto con le saponette e i dentifrici, per cui stiamo individuando componenti tossiche, allergiche, eccetera, eccetera. Devo ancora un attimo sistemare i documenti, perché chiaramente all'inizio è sempre un po', bisogna un po' valutare il lavoro da fare, quindi c'è ancora abbastanza disordine, diciamo, per il momento. Però, insomma, dovrei riuscirci, vediamo domani se riesco a. Siamo già a 22 membri del gruppo iscritti. Quasi tutti mi hanno dato già un feedback, molti hanno partecipato già alla corsa e sicuramente se tutti quanti parteciperanno potremo fare un buon lavoro, perché penso di suddividere il lavoro in vari sottogruppi, perché ora appunto è tanto. Ho presentato il GDL a livello internazionale perché vorrei che anche negli altri chapters si sviluppassero dei gruppi simili, perché le multinazionali che producono i prodotti che compriamo nei supermercati sono dappertutto, i prodotti sono gli stessi, quindi la problematica delle sostanze tossiche, allergiche, bla bla bla, e dell'inquinamento dell'ambiente dovuto a questo è un problema mondiale. Quindi suddividendo il lavoro anche a livello di vari chapters potrebbe essere molto interessante, potrebbe venirne fuori anche una pressione di opinione pubblica verso le multinazionali. Perché queste possano cambiare idea e cominciare a produrre dei prodotti migliori. Questa è la mia intenzione in linea generale ed è abbastanza condivisa. Poi chiaramente la metodologia per arrivare a fare questo è tutta ancora da pensare, da sviluppare e programmare. Però insomma sono abbastanza fiduciosa e anche abbastanza decisa sul lavoro che voglio fare, perché secondo me è un'azione pragmatica, cioè può diventare un'azione reale, concreta, per i nostri scopi, cioè quella di cambiare la società in cui. Questo per quanto riguarda il GDL consumo cosciente. Relativo però a questo e anche ad altri gruppi di lavoro, io volevo proporre un interscambio per quanto riguarda comunicazione, perché io avrò bisogno di comunicare i miei risultati all'esterno del movimento, quindi ai consumatori, tra virgolette, e quindi volevo, all'interno di questo spazio, questa sera, volevo produrre una collaborazione, magari se vuoi Fausto ne parliamo dopo, tra GDL. Per quanto riguarda la comunicazione, che secondo me è un problema, che bisogna affrontare abbastanza in fretta. per il momento è tutto, poi appunto ne parliamo dopo se vuoi, oppure se vuoi continui. Va bene, grazie Giovanna e complimenti per l'impegno. Ottima reportistica a parte quella maledetta ventola che ogni tanto si fa fatica a sentirti, però avrei modo col tempo magari di risolvere il problema. Sull'ultima domanda che hai fatto, beh sì, magari ne parliamo un pochino meglio dopo, o perché no, anche la prossima volta, se non abbiamo stasera lo spazio, comunque. L'importante è che ci ritroviamo una volta al mese per tirare un attimino le somme. E vabbè, dai, andiamo un po' avanti perché qui il tempo scorre velocemente. Masma, anzi, prima di Masma c'era German che voleva riprendere un attimino qualcosa. Vuoi ancora intervenire, German, o ti faccio intervenire dopo? No, ma dopo quando finiscono tutti. Va bene. Allora, vai pure, Masma. Fai la tua reportistica se ce l'hai, oppure non ti preoccupare, per la prossima volta ce l'avrai. No, no, vabbè, un paio di cose le posso dire. Allora, cominciamo per grafica. Allora, per grafica io ho preparato la guida multimediale in MP3 che mancava da scaricare già comodamente, diciamo, convertita in MP3 in modo da poterla mettere su un lettore o eccetera, insomma, insomma, una gran comodità, insomma, chi arriva e se la scarica senza dover ogni volta fare la conversione. Vabbè, dai, German, l'MP3 universale mondiale. Poi, siccome avevo fatto dei lavori causa la proiezione che abbiamo fatto a Treviso, che poi in realtà alla fine si è deciso di non usare in quell'occasione, comunque il lavoro è fatto e quindi resta a disposizione. Prossimamente lo ca caricherò da qualche parte e lo condivido. Mi restano giusto due cazzatine da sistemare, che sarebbe praticamente il lavoro di la parte economica di Moving Forward. Per quanto riguarda il gruppo stesso di grafica, sta un po' arrancando a causa di che non c'è un coordinamento chiaro. Valentina ha dei problemi, so che ha dei problemi perché è molto pressata sia dallo studio che dal lavoro e quindi so che è parecchio impegnata e molto probabilmente è questo che la frena. E niente, io appena trovo un po' di energie e mi faccio un po' di coraggio, cercherò di rivitalizzare un po' il gruppo e di mandare avanti un po' di cose, speriamo. Invece per quanto riguarda la moderazione, vabbè, c'è ben poco da dire, insomma, la solita routine, non ci sono novità o cose di rilievo da dire in proposito. C'è solo una routine che va avanti più o meno sempre uguale. Ok, grazie Masma. Il fatto di recuperare il gruppo grafica e video è molto importante. Fareste una grandissima cosa vedere se c'è la possibilità di recuperare Valentina oppure di mettere sotto qualcun altro, perché comunque serve, perché dal momento che anche nel GDL Nuovi Arrivati arrivano persone che vogliono collaborare con quel gruppo non trovano nessuno e quindi insomma non è una bella figura che ci facciamo, ecco. Quindi magari deleghiamo qualcun altro, se Valentina non può momentaneamente per motivi suoi, poi magari se ritornerà potrà comunque inserirsi tranquillamente senza nessun problema. Esatto, pensavo E di mettermi come coordinatore. E boh, intanto andare avanti un po' con questo gruppo. perfetto. Sì, ti volevo chiedere un'altra cosa, Max, visto che tu fai parte anche del gruppo dei moderatori. Oltre te, c'è ancora Peter Ray, qualcun altro che ti dà una mano oppure sei da solo? Allora, beh, diciamo che sono abbastanza da solo. No, ogni tanto si vede qualcuno, ma sporadicamente. C'era anche Valentina, no, Valentina neanche più sul forum proprio, è persa anche lì. Sì, diciamo che il grosso, sì, mi sto arrangiando io, però insomma ce la faccio, non è un problema. Vabbè, comunque è importante che ci concentriamo tutti quanti su un solo gruppo, perché sennò comincia a diventa troppo stressante per tutti seguire. Chi se la sente volentieri, anche se riesce a far parte anche di altri gruppi, quello sicuramente è una cosa che personalmente ognuno di noi sa decidere, però se si vuole fare una cosa, diciamo, ben distribuita, dovremmo concentrarci ognuno su un gruppo in particolare. Vabbè, dai. No, volevo dirti una Sì. cosa adesso che mi è fatto venire in mente una cosa. Come a livello di moderazione, bisogna che prendo contatto adesso che me l'hai fatto venire in mente, e se sono andate avanti le cose, perché c'era Yuri che voleva entrare a darmi una mano. E so che era in contatto con l'amministrazione del sito, eccetera, eccetera, per andare avanti con la cosa, però poi non so più com'è finita, bisogna che lo contatto perché sì, è stata una cosa un po' nel post simposio che è venuta fuori questa cosa qui, poi io avevo la proiezione a Treviso ed era un po' preso, eccetera, vabbè, e poi è rimasta un po' lì. E bisogna che riprendo questo discorso anche. Ok, perfetto. Allora, sentiamo la reportistica di Sergei, che praticamente è stato delegato da Alessandra Pace, che sarebbe la coordinatrice, e comunque va benissimo anche Sergei, non c'è nessun problema, del gruppo Sociologia e Comunicazione. Vai pure, Sergei. Buonasera a tutti, io sarò abbastanza sintetico come sempre. Nel GDL ci sono due progetti, uno è stato praticamente completato, è quello del questionario, e adesso me ne sto occupando io e c'è un'altra persona che ha offerto di darmi una mano, anche se non ha molte competenze, alcune esperienze in questa cosa. Facciamo due analisi separate, poi pubblicheremo un report di questo studio con le conclusioni a cui lo studio ha portato. Abbiamo un campione di circa 100, 400 persone, compreso i questionari sia online che quelli cartacei. È meglio che li inserisci perché tra poco analizziamo i dati e poi non ci torniamo più. Quindi peccato perché saranno persi quelli che non sono ancora stati inseriti, ormai è passato tantissimo tempo, quindi facciamo l'analisi, non aspettiamo. Il secondo progetto è stato proposto da Alessandra, è stato pubblicato un documento in Google Docs per studiare la scarsa partecipazione delle donne nel movimento. sono diverse proposte su come si può studiare questa cosa. Non so a che punto è, secondo me non è stato ancora fatto tanto, ci sono state soltanto, sono state svolte alcune discussioni su questo argomento per ora. Poi io vorrei proporre un'altra cosa, consigliata, diciamo, che l'idea è partita dal video pubblicato da Giovanna. Sulla comunicazione non violenta e i discorsi che lei faceva e l'accenno che ha fatto anche in questa discussione qui riguarda proprio questo argomento. E io li ho guardati e mi sono piaciuti tantissimo. Secondo me raccolgono tutti i problemi, tutte le problematiche di comunicazione in un argomento solo, in un concetto solo. Secondo me è molto utile, diciamo, per tutti noi, potrebbe essere, diventare anche una specie di linea guida, non tanto per il movimento, ma per noi come quelli che partecipano al movimento. Ecco, vorrei proporre questa cosa e iniziare ad approfondire un po' di più questo argomento, svilupparlo un po' di più, fare approfondimenti, magari anche dei training, qualcosa del genere. Poi potrei aggiungere anche un'altra cosa a proposito del gruppo di grafica, perché sono stato contattato da un paio di persone che chiedevano se è morto, non è morto, se c'è qualcuno. Paolo Posoco non se ne occupa più. C'è, infatti non ricordo come si chiama, avete parlato prima, c'è una ragazza di Milano che doveva occuparsene, ma è occupata anche lei. Comunque, adesso Valentina, bravo, e adesso i progetti sono un po' sparsi. Io prima partecipavo al GTL, adesso mi occupo io solo dell'editing di video del simposio, che, come vedete, vengono pubblicati ogni martedì. Però riuscirò a farlo solo ancora per un paio di settimane, poi non avrò più tempo, quindi spero che qualcuno mi aiuti con questo. Questo è tutto. Ok, ti ringrazio Sergio, lo speriamo tutti che arrivi sempre gente nuova pronta per aiutare. Logicamente, come ripetevo prima, se c'è però la presenza di ognuno di noi o altre persone che coordinano costantemente i gruppi, è meglio, perché se poi troviamo persone che vorrebbero fare quella determinata cosa e poi vedono che non c'è organizzazione, uno ci facciamo una brutta figura, due insomma passa un pochino la voglia di dire o di fare qualcosa, a meno che non subentri una passione improvvisa o attaccatissima al movimento, che può anche essere. Vabbè, c'era Diana che voleva aggiungere qualcosina sempre riguardo le traduzioni. Vai pure, Diana, dopo faccio la mia reportistica. Queste persone eventualmente interessate dovrebbero fare come me e venire sbalzate al coordinamento, così come ha fatto Daniele e anche Giovanna. Vabbè, dai, era per rompere un po' il ghiaccio. Ma siccome mi sembra che la mia riportistica non sia stata soddisfacente, vorrei aggiungere che per me è difficile fare un report dei progetti perché non so, non, il GDL tra non è come gli altri, non ci orientiamo su 2 o 3 progetti, ne abbiamo molti di più, ne abbiamo quasi 100 se non 150, quindi io posso riportarvi dei numeri che sono le cose che abbiamo tradotto e le cose che stiamo revisionando, sarebbero un po' noiose. Sto gestendo un forum separato che hanno creato apposta per i team linguistici. Partecipo 3 volte al mese al meeting dei team linguistici e quindi ricevo anche indicazioni e ho altri coordinatori oltre a quelli nazionali, anche altri collaboratori. E praticamente gestisco da sola un gruppo nuovi arrivati che, come dicevo prima, devono imparare a usare i vari strumenti e quindi non solo TeamSpeak, ma i siti che usiamo per tradurre, che sono diversi. E E i nuovi arrivati non arrivano solo dal movimento italiano, ma arrivano anche dall'estero, arrivano dal Venus Project, quindi poi io collaboro principalmente con il movimento italiano, qualcuno si trova un po' disorientato. E per quanto riguarda i progetti miei personali, ho iniziato a lavorare sulle revisioni, se no non ne usciamo più, e sto personalmente trascrivendo i video del simposio. Quelli che sta realizzando Sergei. Perfetto Diana, ne stai facendo di cosine, complimenti. Vabbè, andiamo avanti perché qui il tempo scorre sempre, non facciamo mai in tempo a portare avanti un po' tutto quanto. Come primo incontro, diciamo, è abbastanza generico più che altro sul fatto di essere qui, di incontrarci, di cominciare un attimino a preparare le nostre reportistiche. Perché è giusto sapere, non è importante portare dei numeri o descrizioni dettagliate, l'importante è che si dà una reportistica abbastanza descritta, come quella che hai fatto tu, Diana, e anche gli altri, e più che sufficiente, ecco, almeno sapere che cosa stanno facendo gli altri, poi magari col tempo verranno fuori anche serate dove possiamo anche collaborare o darci dei consigli. Allora, Giovanna voleva aggiungere qualcos'altro, però sul gruppo dei programmatori è stata delegata, oltre che al suo gruppo consumo, anche al gruppo programmatori, vai pure. Ufficialmente non sono stata, è proprio questo il problema, nel senso che purtroppo siamo solo in tre, Sirio e entrambi, Sirio e Andrea, sono talmente tanto presi che praticamente un mese che non ci sono più. Comunque abbiamo chiesto anche l'aiuto, diciamo così, ai membri del gruppo e anche a livello del quindi del movimento, però insomma, la risposta non è arrivata. Ad ogni modo, io sto progettando le pagine del nuovo sito con una grafica diversa, che questa è stata un po' concordata, ma insomma sto già buttando giù le basi per i prossimi. Purtroppo appunto siamo un po' pochi. Ad ogni modo io volevo qui approfittare del fatto di essere in contatto col gruppo comunicazione perché volevo proporre una collaborazione tra GDL, programmatori GDL e comunicazione per la revisione dei contenuti del sito vecchio che verranno poi riportati sul nuovo, perché sono tanti e io da fare tutto da sola, insomma volevo sentire se ci fosse qualcuno disponibile per vedere un po' le cose che bisogna prendere in mano, le altre che magari non servono e andare. Questa è un po' la situazione della programmazione, anche se io ci tengo molto, appunto, e ci sto lavorando. Ok, io vi do un consiglio innanzitutto, in primis, nel caso tipo di Giovanna, visto che c'è questa esigenza molto importante, che è quella proprio di persone, proprio dell'obiettivo che ci stiamo ponendo sul nuovo sito da fare e da trasferire tutto quanto nel nuovo sito, tutti quanti avete la mail di Vincenzo, che è il co-coordinatore. Quindi, quando avete un annuncio da fare importante o una richiesta da fare importante, mandategli una mail con la vostra richiesta e lui la mette sulla home page. Nel caso di Giovanni, si potrebbe tranquillamente mettere nella home page una richiesta di collaborazione proprio a chi ha competenze informatiche, che può collaborare. Proprio sul problema che ha citato adesso Giovanna. Quindi, se avete dei problemi, non fatevi nessun timore a mandare una mail a Vincenzo Barbato, che appena può, ecco, perché anche lui è abbastanza pieno di cose da fare, però sicuramente la posterà. Volevo aggiungere anche una cosa sulla non-violent communication. Sì, vai pure. Sì, faceva presente Sergei, è una cosa importantissima perché dobbiamo imparare a parlare, ma a parlare con violenza, per cui scrivo in chat che stiamo traducendo, stiamo lavorando sopra con Diana e anche degli altre persone perché secondo me e secondo noi tale sia per noi stessi sia per quello che dobbiamo, per quello che è la nostra azione di parlare con gli altri al di fuori del movimento. E a questo proposito abbiamo fatto di parlare con gli altri. Ieri abbiamo tradotto con Diana una email che se l'abbiamo ricevuta, l'email di Capanno mandata dal gruppo, dall'amministrazione internazionale a tutti i chat. L'hai ricevuta? Boh. Casomai poi la mettiamo in condivisione, i quali facevano proprio questo tipo di richiesta, cioè di imparare a parlare, di imparare a diventare i portavoci del movimento. E soprattutto anche sapere moderare, che in certe circostanze purtroppo dobbiamo fidarci sicuramente di tutti noi. però vedi, nel caso come è successo su Delio, adesso non tiriamo fuori e prolunghiamo il discorso su di lui, però si poteva bloccare tranquillamente quella serata e purtroppo è mancato diciamo un attimino un po' di polso nel farlo, e questa qui è una cosa molto importante perché va proprio a rovinare tutto ciò che stiamo facendo, proprio la figura di tutto il nostro impegno, e quindi avete tutto, avete assolutamente la responsabilità tutti quanti, se manca un moderatore, di riprendere le persone che stanno disturbando. Vabbè. Comunque volevo dare anch'io una mia reportistica, se posso, mi date il consenso? Ok. Sicuramente. Va bene, allora, come sapete tutti, insieme a Vincenzo e altre persone, attualmente da settembre abbiamo sviluppato il GDL Nuovi Arrivati, che come sapete lascia voce a chi solitamente nel forum non riesce ad ottenerla. Abbiamo fatto 16 incontri, il 17° stasera, che è in questo caso proprio delegato Vincenzo al posto mio, tutti i martedì sera, e riscontrando 38 nuovi arrivi, dei quali diciamo non tutti sono molto partecipi, però 10 hanno cominciato a collaborare, tra i quali 3 ne abbiamo stasera, adesso German se n'è andato, però ci abbiamo anzi 4, c'è cioè Diana, Giovanna e Daniele. Che non è che sia tantissimo, che saranno 2 mesetti, 2 o 3 mesetti se non sbaglio che siete entrati, quindi avete subito preso delle grandi responsabilità e questo fa molto piacere. C'è un altro interessantissimo nuovo arrivato che purtroppo io non vorrei farlo assolutamente scappare. Si chiama Mirko, il cognome assolutamente non lo so, però ho la sua indirizzo mail, e fa parte di una compagnia teatrale di Roma e sembra molto interessato a collaborare artisticamente nella divulgazione di Zeitgeist con un loro progetto. Purtroppo io, a parte Peter Ray, che si chiama poi Fulvio, non ho più contatti con nessuno di Roma, non ho mail, e se qualcuno può gentilmente o è in possesso di qualche contatto di Roma, io gli passo la mail di Mirko, che penso che sia il diciamo, il coordinatore di questo gruppo teatrale, perché la loro iniziativa la ritengo molto importante e comunque bisogna lasciare la possibilità a chi veramente ha questo tipo di potenziale anche artistico per divulgare ancora di più e passare questo nostro messaggio. Vi linko adesso la mail. Forse Vincenzo può dirti qualcosa, perché anch'io di Roma conosco solo Peter Ray e Federica. E però recentemente qualcun altro ha chiesto contatti di Roma e gli avevano linkato la solita pagina Facebook e gli avevano detto c'è questo tipo, però io non mi ricordo il nome. No, ma c'è qualcun altro di Roma, però viene in Nel mente, ma simposio c'è. c'è stato anche Rino, si chiama Guerrino, però purtroppo ultimamente lui è molto occupato. Infatti io l'ho cercato disperatamente, ma non trovo me, non ho contatto neanche con Facebook, con Rino, però so che era abbastanza attivo, era uno dei, diciamo, più attivi di Roma, ecco. Sì, infatti. Era lui in contatto con Silvano Agosti e ti passo il suo contatto Facebook. Ok, e allora continuo un attimo la reportistica. Allora, l'obiettivo del GDL Nuovi Arrivati quindi è estremamente importante, è di inserimento per una crescita costante ed efficiente. Aggiungo, oltre che una reportistica del GDL Nuovi Arrivati, una cosina molto interessante che così improvvisamente mi è capitato di fare e ve la consiglio in caso possa essere utile. Sa questo sabato, il sabato 7, anzi il sabato 7 gennaio, per la prima volta ho sperimentato insieme al mio collaboratore Martino Acchiorvoli una conferenza da casa su Skype con un gruppetto di 30 persone ad Abano Terme. Martino ha un'associazione culturale che fa un po' di social therapy, lui è uno psicologo. E ogni fine settimana segue un gruppo di persone anche assolutamente non con disturbi mentali, ma insomma per persone che hanno voglia di conoscenza, di stare in cuore, di sperimentare questa nuova realtà, ecco, che sta sviluppando Martino. Ho fatto una piccola presentazione sul movimento iniziative open source e volevo consigliarvi a chiunque abbia la possibilità di sfruttare questa miniera e maniera della risorsa informatica di questi programmi che abbiamo a disposizione tipo Skype o TeamSpeak, contattando, se avete modo, le associazioni delle vostre città, che ce ne sono sicuramente tantissime. Elencando magari anche solo per me che cosa fate, e provare da casa comodamente se interessa fare una piccola conferenza informativa sul nostro movimento. Adesso vi lascio un attimino la parola per sentire un attimino che cosa pensate su questa idea, che secondo me potrebbe essere anche un metodo per far scorrere di più la nostra presenza, ecco, visto che tutti noi abbiamo grosse difficoltà presi dalla vita quotidiana e anche da tantissime altre cose che stiamo facendo, sia qui che nel nostro privato, potrebbe essere un ottimo metodo da sfruttare comodo. Sì, dicevo, l'ho scritto anche in chat, purtroppo Skype è gratis solo se lo usi due, se lo usi con la conferenza con più di due utenti, costa, adesso non ho idea del No, costo, aspetta, sarà anche il Giovanna. minimo. Giovanna, nel mio caso, forse mi sono spiegato male, erano due computer, eh? Cioè, c'era il gruppo di 30 persone in una sala e io da casa, hai capito? Il fatto poi che questa. Forse mi sono spiegato male. Questo lo possiamo comunque fare tranquillamente su TeamSpeak. Su Skype, è un'alternativa. Logicamente non cambia più di tanto perché, vabbè, cambia che su Skype volendo puoi farti vedere, su TeamSpeak chissà, un giorno in futuro qualcuno aggiungerà anche questa opzione, anche se la ritengo un po' difficoltosa, se non me ne intendo tanto, però tenere tante connessioni tutte insieme video mi sembra un po' difficilino. Vabbè, comunque andiamo un attimino avanti. E, allora, abbiamo affrontato il primo punto che vi ho scritto anche per mail, che era proprio quello delle reportistiche, per un attimino riprendere ed ascoltare la situazione anche degli altri. Il secondo punto, proprio visto che abbiamo concluso su metodi, era proprio i metodi di lavoro. Avete difficoltà nelle comunicazioni nel vostro metodo di lavoro? Ricordatevi quello che ha citato prima Giovanna e Sergei, e anche che c'è un gruppo di lavoro importante, proprio quello di Alessandra, di sociologia e comunicazione, che forse dovremmo un po' più partecipare tutti quanti, perché io stesso purtroppo penso che lo faccio il giovedì sera, è una serata un pochino difficile per me, però appena posso cercherò di partecipare perché mi interessa parecchio. Ok. Allora, Posso sì, vai pure. dire, io vorrei che magari si potesse fare una mail per i coordinatori, in modo da tenerci in contatto e parlarci tra di noi dei vari lavori, eccetera. Si potrebbe creare una mailing list solo coordinatori. Giovanna, intendi un gruppo tipo Google Group? Sì? Già c'è. C'è già. Ah, bello sapersi, grazie. Magari datemi qualche riferimento. Sì, vai tu, Massimo, va No, bene, beh, così. bisognerà, penso, sistemare un po' le questioni dei permessi, non so com'è messa a livelli di permessi. Io ci sono. No, ce l'ha, ce l'ha. Se prova a verificare tu, Masma, però io ho mandato la mail a tutti quanti proprio da quel gruppo, ok? Praticamente c'è la possibilità di scrivere una mail su quel programma e mandarlo tranquillamente a tutti gli iscritti. Quindi se Giovanna mi confermi che ti è arrivata la mail dell'incontro di stasera, vuol dire che tu sei iscritta e hai il consenso di anche postare qualcosa, penso. Esatto, se qualcuno non è iscritto lo fa presente. No, io il discorso che facevo io è il discorso dei permessi di gestione, no? Per accettare magari le iscrizioni o per fare gli inviti. Non so adesso chi è che ha l'amministrazione di quel gruppo, quanti sono gli amministratori, non ho idea. Vado a verificare un attimo, arrivo subito. Sì, no, io dicevo, ma se io devo scrivere agli altri coordinatori è possibile? Certo che è Sì. possibile, basta che scrivi, semplicemente puoi rispondere a un thread già aperto, rispondendo senza cambiare il titolo alla mail e arriva a tutti. Se vuoi scrivere un nuovo thread, puoi sia accedere al sito del gruppo, cioè al sito, alla pagina su Google Group, sia usando direttamente client email, mettendo una mail a quel gruppo con un nuovo titolo, si crea automaticamente un nuovo thread. Ok, lo sto visionando adesso. Allora, i proprietari sono Federico Pistono e Mirtis. Ok, fanno parte finora Alessandro Pace, Claudio Maiet, che mi manca tantissimo, ragazzo, purtroppo sarà un anno che non si fa sentire. Claudio Proietti, Daniele Mancinelli, Dario Andrella, non mi ricordo, Diana Gambato, io, Federico, Florindo, che anche lui non si sente più ed è anche oltretutto di Roma, German, Masma, Mirtis, Paolo Posocco che non si sente più, Peter Ray e Sharmind di Firenze. Questi fanno parte del gruppo coordinatori. E però, adesso che guardo un attimino, Giovanna non la vedo. Quindi Giovanna, mi fai la cortesia di mandarmi la tua mail che ti scrivo subito. Ehi Fausto, non hai nominato neanche me, mi aggiungi? Perché c'è già German, hai capito? Ah, Comunque, ok. sì, ma se vuoi ti aggiungo anche te, non è un problema. Ti dovrebbe arrivare tra poco. Beh, magari lo faccio dopo, adesso magari vado avanti con le altre cose. Comunque, mi devo ricordare allora, Giovanna e Daniele. Vi dovrebbe comunque arrivare una mail di invito, dopo accettate così. Non ci sarà problema. Allora, andiamo un attimino avanti. Allora, dicevo prima, metodi di lavoro. Ci sono alcune considerazioni che volevo un attimo portare. Allora, trovare la volontà di impegnarsi gratuitamente in un progetto così importante, come lo consideriamo, è una realtà da condividere. Anche se poco, ma spesso possiamo organizzarci nell'arco di una giornata una semplice mezz'oretta, che alla fine penso che tutti quanti riusciamo, anche se molti di noi fanno più di una mezz'oretta, ma è solo per dare un esempio. Questa mezz'oretta sommata, alle settimane di un mese, che sono quattro, svilupperemo, per ogni singola persona circa 14 ore mensili. Moltiplicate poi, se fosse veramente così, ai 90 attivisti che erano anche presenti al simposio, quali forse più della metà non partecipano costantemente, ci sono molti però che partecipano ai gruppi cittadini, per fortuna, potremo ottenere con poco sforzo già la copertura di un mese, sviluppando invece che 30 giorni, in 30 giorni, bensì 52 e mezzo con questo calcolo, cioè 30 minuti al giorno ognuno di noi, per 90 persone che adesso riteniamo attivisti. E penso che ci sia un attimo da pensare questa cosa, perché sembra una cavolata, però sviluppare 52 giorni in 30 penso che sia un ottimo modo per iniziare a crescere. Ci accorgeremo infatti che finora forse questa piccola organizzazione mirata, libera, distribuita, la vera linfa che sfugge negli ultimi mesi al movimento è proprio questa. Considerato che erano e sono veramente ancora pochissime a mantenere vivo il movimento, con parecchie cose da fare, quindi vi dico a tutti quanti che l'assoluta importanza adesso è di riuscire a responsabilizzare anche altre persone, di saper dare compiti a noi qui già presenti, ad altre persone che vogliono far parte dei nostri gruppettini di lavoro. Questo appunto per arrivare al sistema prima citato, che lo ritengo il meno impegnativo possibile, ma il più efficiente, proprio per anche tutto quello che abbiamo da fare durante l'arco di una giornata, e possiamo dedicare le nostre 5 ore di tempo libero al giorno al movimento Zeitgeist. Chi lo vuole fare è meglio, però sicuramente è un po' difficoltoso per tutti quanti. E forse è stato anche uno dei tanti motivi, questa poca organizzazione, a far scappare tanta gente, proprio perché c'era, come Federico, anche altre 10 persone più o meno che dovevano fare tutto quanto e gli altri stavano a guardare. Più troviamo ordine e concretezza, vedendo continuazione e sviluppo, crescerà l'entusiasmo, empatia e passione, perché ne vedremo i risultati, ne sentiremo le gratifiche. E proprio sul fatto della partecipazione, adesso vi lascio un attimino a parlare perché non voglio parlare solo io, però dopo voglio passare proprio al terzo punto, che è la situazione sulla partecipazione, che ho sentito solo un bel quantitativo di partecipazione da parte del gruppo di Giovanna. Comunque adesso vi lascio un attimino parlare e poi prendiamo questo terzo punto. Io, se permetti, io volevo finire il discorso che stavi facendo prima della mailing list, perché il problema poi sarà che le persone magari che più o sono poco disponibili, tipo Valentina, anche se ricevono l'email, poi a chi la girano? Adesso, per esempio, c'è Sergei, l'applicazione, possiamo inserire anche lui, per esempio. Sì, comunque Valentina sta praticamente con me sia in moderazione che in grafica, quindi volendo posso farne le veci, insomma se c'è da girare una mail la giro io. Ah, ok, Volevo quindi ti arriva a te aggiungere, tu la giri. comunque posso bene aiutare a contattare le persone, ma cioè, non è un problema. Volevo aggiungere prima di finire questo discorso un'altra cosa, perché è arrivata una mail da Ezietto che ha fatto una registrazione visto che non può partecipare, ho scritto nella chat. Io potrei mandare la riproduzione qui in chat, così la sentiamo tutti se volete, Sì, sì, perché fa sì. parte delle partistiche. Sì, Il infatti report volevo. Del GDL, scusami, del GDL doppiaggio. Esatto, infatti Sentiamo, sentiamo. ce l'avevo anch'io la registrazione, volevo tenerla per ultima, però va benissimo. Puoi andare, Sergio, vai pure. Ok, la faccio non con il microfono, ma imposto adesso l'audio card per mandare direttamente in chat, poi vediamo, dovrebbe funzionare. Un attimo solo, mi confermate nella chat che funziona, ok? Ok, va bene. Buonasera a tutti, saluto tutti i ragazzi del TeamSpeak qui presenti, io sono Ezio della GDL Doppiaggio. In questo momento state ascoltando una registrazione, in quanto io non posso essere presente qui con voi per motivi personali di impegni. Quindi ad ogni modo ho voluto essere in qualche modo partecipe del TeamSpeak lasciandovi appunto questa registrazione e facendovi un breve report di ciò che è stato fatto e di ciò che eventualmente potrebbe essere fatto in futuro. E innanzitutto ringrazio Fausto per l'idea di aver realizzato questa serie di incontri speciali dei coordinatori. Il GDL Doppiaggio ha realizzato, come tutti sapete, il viaggio di Moving Forward e successivamente si è prodigato in altri due lavori, un documentario di un'ora, Who is Peter Joseph, dove appunto Peter Joseph viene intervistato e in qualche modo descrive un po' la sua vita e anche i principi base del movimento Zeitgeist, molto carino da vedere, secondo me, cioè, andrebbe visto perché è molto interessante. E infine un altro video che è stato doppiato, l'ultimo cronologicamente, e anche più breve, riguarda il messaggio di Peter Joseph sul movimento Occupy Wall Street. Anche questo è molto importante in quanto Peter Joseph, oltre a dare dei consigli sulla non violenza in ambito di folle o manifestazioni di gruppo non violente, ci dà anche delle indicazioni su come eventualmente è possibile realizzare una nuova struttura economica e anche politica a livello globale, mondiale, su come appunto organizzarsi, su come creare rappresentanti, eccetera. Insomma, Peter Joseph in qualche modo si comincia a sbilanciare anche a livello pragmatico, oltre che ideologico e teorico, quindi nella pratica comincia a dare dei consigli ed è una cosa abbastanza recente. Quindi per questo motivo secondo me è importante da vedere appunto perché per questi nuovi concetti prima mai esposti. Per quanto riguarda il GDL doppiaggio, in futuro attualmente non so ancora, non ho ancora bene in mente cosa fare, cosa realizzare, anche perché nel periodo natalizio e nel periodo insomma fino all'Epifania io sono stato molto, molto impegnato, ho avuto dei casini miei, quindi per il momento non ho ancora pianificato nulla. Ad ogni modo, se ci dovessimo incontrare nel prossimo TeamSpeak dei coordinatori, che dovrebbe essere mensile, quindi tra un mese, sicuramente vi aggiornerò su eventuali progetti in ballo. Il GDL doppiaggio attualmente è composto da persone anche esterne al movimento Zeitgeist, doppiatori che sono magari simpatizzanti o comunque estranei al movimento, che però si prestano a titolo gratuito a fare appunto questi lavori di doppiaggio, a prestare la propria voce gratuitamente per questo obiettivo, per questo fine. Ad ogni modo, se qualcuno di voi conosce qualcuno che è bravo nei doppiaggi, è bravo a insomma, una buona dizione, quindi potrebbe prestarsi a questo tipo di lavoro, può segnalarmelo, può mettermi in contatto con lui e quindi cominciare una collaborazione anche di nuove persone, di nuovi doppiatori. Inoltre volevo ringraziare il GDL Traduzioni, che mi ha aiutato spesso nei miei progetti, in particolare Diana Gambato e Giovanna Marino, che presumo siano entrambe presenti qui all'interno del podcast, perché entrambi coordinatrici di gruppi di lavoro, quindi presumo che ci siano, quindi se ci sono le saluto entrambe. Sicuramente contatterò il GDL Traduzioni per future collaborazioni, futuri lavori di gruppo, insomma, future sinergie. Se volete contattarmi potete utilizzare l'indirizzo email del mio gruppo di lavoro, DUB, scritto DUB, Domodossola, Udine, Bologna, @zeitgeistitalia.org, oppure il mio indirizzo email privato che già conoscete. Ovviamente tutti i video di cui vi ho parlato sono presenti nel canale ufficiale di YouTube. Qualora qualcuno di voi avesse bisogno delle versioni ad alta risoluzione, insomma ad alta definizione video, può farmene richiesta, io provvederò a inviarglieli. Ovviamente mi farebbe piacere se qualcuno di voi mi inviasse via email la registrazione del podcast o eventualmente le indicazioni su dove trovarlo. Bene, con questo è tutto, penso sia tutto, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio Fausto per aver mandato in onda questa registrazione al TeamSpeak, quindi mi ha permesso in qualche modo di essere presente in maniera virtuale a questo incontro, in differita per così dire, quindi saluto tutti, vi porgo gli auguri di un buon 2012, anche se con un po' di ritardo, però insomma non abbiamo avuto modo di sentirci prima, ci sentiremo al prossimo incontro TeamSpeak dei coordinatori GDL. Perfetto, abbiamo sentito anche la sua reportistica, fantastico, così registrato veramente. Grazie. No, beh, se posso mandargli un salutone anch'io, tanto lui si beccherà la registrazione, quindi lo saluto. Qui adesso che stiamo registrando, sì, siamo solo in tre, quindi non so, Giovanna, Masma o io gliela manderemo. Chi si prende quest'altro cosuccia da fare? Faccio io, dai. Perfetto, grazie mille, Masma. Tanto non è da lavorare, la converto e la mando. Ci vuole un attimo. Perfetto. Ci sta tutta attivato per mail? Ma ci sta tutta? Su una mail? Dovrebbe starci. Adesso vedrò se ci sta, se no gli mando un link a Mediafire, dipende. Lo stesso, se no glielo metto su una mia cartella Mediafire e lui se la scarica e boh. Vabbè, in qualche maniera cercheremo di farglielo ascoltare. Sì, esatto, la va in una maniera o nell'altra. Allora, torniamo un attimino a noi. Volevo un attimino rispondere a Giovanna sulla, sul fatto di avere un vice per la main list, non c'è nessun problema. Se c'è qualcuno che vuole partecipare anche a quello, ben venga. Cioè, non ci sono barriere. Cioè, chi vuole fare e si sente di fare qualsiasi cosa, non c'è nessun problema. E quindi, Giovanna, se vuoi farlo anche tu. Che cosa, scusa? Il vice, come dicevi prima in chat. Sì, no, nel senso io dicevo che ognuno nel proprio gruppo dovrebbe trovarsi un vice, in modo tale che se per caso qualcuno manca ci sia sempre qualcun altro a ricevere e dare risposte. Posso, Fausto, se ti ricordi di questa cosa, se n'era discusso e deciso anche negli incontri che abbiamo fatto per la coordinazione, quando c'è stato il cambio di coordinazione. E vabbè, comunque bisogna, sì, il problema è trovare le persone che si prendono la coordinazione. Però effettivamente dovrebbe essere questa, all'epoca è stata una linea di condotta che avevamo deciso. Insomma, speriamo di poter applicarla. Ok, dai ragazzi, volevo concludere e passare al terzo punto perché avevo anche un quarto punto che erano i progetti e quindi andiamo avanti. Allora, dove eravamo arrivati? Alla situazione della partecipazione. Allora, beh, io vi dico che la speranza naturalmente è che da parte del mio gruppo si spera sempre di buttare il più possibile gente che partecipi, però purtroppo non lo possiamo scegliere noi, però finora ha portato comunque un pochino di persone in circa 4 mesi più o meno. Cosa? C'era un punto che volevo dire, scusate, però devo un attimo riprenderlo perché c'è tutto scritto naturalmente. Ok, niente. Se velocemente, velocemente, tutti quanti facciamo una piccola reportistica sulla partecipazione dei vostri gruppi. Io anticipo dicendo che noi siamo in 9 solitamente che formiamo il gruppo GDL Nuovi Arrivati, e diciamo che continuamente siamo più o meno in 7, due persone le ho un pochino perse. Mi fa piacere perché comunque uno è Ciro, che fa parte del gruppo tecnologia, so che è molto impegnato anche nel privato, e l'altra è Yuri Apignanesi delle Marche, che anche lui ha un lavoro che gli porta via un sacco di tempo, però quando può anche lui, quelle poche volte, cerca di essere presente. Quindi niente, io volevo un attimino essere un po' informato su più o meno, prima ho sentito Giovanna, circa 22 iscritti, è un bel numero. Volevo sapere anche dagli altri più o meno, velocemente una reportistica in ordine, partendo da Daniele. Sì, nel GDL Tecnologia sono mancato gli ultimi tre, però in quegli scorsi siamo sempre intorno a una ventina, per poi sfiorare i 50 quando sono arrivati 0, gas poi 30 e a scalare. Però quelle 10 persone ogni incontro c'erano. Non so questi ultimi tre incontri com'è andata, però c'è una buona partecipazione. Bene, bene, mi fa piacere, infatti so che siete partiti in quarta anche voi, come Giovanna, mi fa solo piacere. Niente, è finito, posso passare a Diana? Ok, Yes. vai pure Diana. Da noi la partecipazione varia, nel senso che abbiamo progetti a breve termine e progetti a lungo termine, e quindi chi ha i progetti a breve termine si fa sentire più spesso e gli altri un po' meno. E quindi ultimamente agli incontri ci troviamo in 3-4. 5-6, infatti, una cosa di cui volevamo parlare era la possibilità di avere le stanze con la password, perché una volta siamo stati, direi, attaccati da un paio di ragazzini che erano venuti qui con l'intenzione di disturbarci, e questo presumo ci abbia anche causato la perdita di una persona. Colpa mia che non sono stata in grado di gestire la situazione. Però la partecipazione, per fortuna, della partecipazione non mi posso lamentare, c'è sempre qualcuno che gira attorno. Ovvio che tutti vorremmo sempre più partecipazione, però, come si diceva prima, farebbe anche comodo avere un vice, qualcuno che possa aiutare in caso di necessità. Però le cose da fare sono tante, soprattutto per il GDL traduzioni, quindi si tratta proprio anche di permessi sui siti. Vedo una cosa da organizzare bene, ecco. Beh, Diana, ti posso già anticipare adesso che sul fatto di creare una stanza con password è semplicissimo, basta che spingi il tasto adesso su qualsiasi canale, e vai sull'ultima voce, crea canale, poi dopo ti dà l'opzione se vuoi mettere o no una password e anche la possibilità di dargli il nome. Occhio però su una cosa che finché sei da sola e cambi canale ti sparisce. Dal momento che hai almeno un utente dentro, puoi anche cambiare canale e andare ad ascoltare un attimino un altro e ti rimane il canale. Quindi tutto qua è semplicissimo, non c'è bisogno di distanze in particolare, o crearsi un canale privato. Farò un'altra prova, perché io in alcune sezioni di TeamSpeak ho anche la C qui, no? E l'ultima volta che ho provato a creare una stanza non mi dava questa opzione della password, che invece in passato avevo. Strano, Vero, molto strano. confermo. No, ma Diana, sulla sezione creata dagli utenti, chiunque può creare canale e dargli una password. Probabilmente tu hai fatto questa operazione sopra, dove bisogna avere i permessi nei canali permanenti. Bisogna avere i permessi per gestire quei canali lì. Invece questi qua sotto, che sono dopo la scritta user creati dagli utenti, insomma, c'è questa possibilità. Puoi Ok, grazie. provare al volo anche adesso. Va bene, allora sparirò per un attimo. Ok, vai, andiamo pure avanti. Vai pure Giovanna. Vabbè, Giovanna già l'ha detto, però se vuoi aggiungere qualcosina, 22 iscritti, un bel numero. Giovanna, sei partita bene anche tu. Sì, crescono come funghi, è veramente incredibile. Devo controllare tutti i giorni. Ok, Io se non volevo hai. fare un'altra osservazione, ma la faccio dopo quando avremo. Una, scusa, osservazione? Sì, un'altra cosa, ma dopo finito, chiuso questo discorso, ne faccio un'altra. Te lo posto Va bene. intanto. Va bene, ok. Vai pure, Masma. Tu sei da solo, quindi Sì, non no, hai niente da dire. beh, io ho poco da dire in quanto TeamSpeak di grafica non se ne sono stati fatti, né tantomeno tra i moderatori, quindi partecipanti zero. Spesso partecipo ai vari TeamSpeak che trovo durante la settimana quando sono a casa la sera. E basta, a livello dei miei gruppi non c'è proprio niente da dire. Ok, vai pure Sergei. Per quanto riguarda il GDL e la sociologia, la partecipazione varia. Adesso c'è stato il periodo di feste ed è da un bel po' che non c'erano incontri, però prima c'erano intorno a 10 persone, quando andava bene anche fino a 15-20, ma di solito intorno a 10. Il GDL grafico non si incontra. Come Sergei, non ho sentito l'ultimo pezzo. Il GDL grafica purtroppo non fa incontri perché non c'è nessuno che le organizza. Ah, peccato, peccato, peccato, peccato. Dobbiamo assolutamente recuperarlo. Allora, niente, io voglio velocemente andare avanti, ricordando comunque che è molto importante in primis il tipo di diffusione pubblicitaria della nostra esistenza. Mantenere una costante informazione a chi purtroppo ancora snobba l'evoluzione informatica di internet, oppure sono pessimi ricercatori o semplici smanettoni, come diciamo, navigatori di altre cacchiate, che in Italia ancora toccano dai dati del 2010 il 44%. Anzi, vi metto qui il link dei dati, un attimo. Però ci sono delle ottime previsioni, e sono quelle che entro il 2015 in Italia ci sarà un aumento fino al 76% di utilizzo della rete internet in Italia. Questo sicuramente giova a nostro favore e dobbiamo assolutamente cercare di aumentare la pubblicità, di farci sentire un po' di più, cercando proprio appunto di aumentare le persone che sarebbero anche desiderose di partecipare, ma ancora non ci conoscono. E lo stesso metodo che avevo citato prima, dei 52 giorni in 30 giorni, possiamo riportarlo tranquillamente proprio anche sull'esempio dell'informazione, della pubblicità sul movimento, dedicando un ulteriore 20-30 minuti, quello che riusciamo, creando blog, facendo qualsiasi cosa a nostra disposizione, ecco, o anche semplici volantini da mettere in giro, anche solo se facciamo una passeggiata la domenica, magari ce ne mettiamo qualcuno in tasca e ogni tanto ne smogliamo qualcuno, da qualche parte. Eventi, perché ha gruppi cittadini, insomma, dobbiamo farci sentire un pochino di più, perché sono sicuro, come tantissimi altri, che questi dati sicuramente ci daranno una mano, proprio perché la gente, il periodo che stiamo attraversando anche nel nostro paese, è sempre più difficile, e forse il momento giova proprio a favore nostro, perché le tematiche che affrontiamo sono tematiche nuove, sono tematiche sulla sostenibilità, su innovazioni, su tantissime cose che probabilmente molta gente verrebbe catturata ed affascinata da questo mondo. È ancora troppo sconosciuto, ahimè. Tocca a noi, tocca a noi far di tutto purché arrivi la voce a più menti possibili, visto che non abbiamo televisione, giornali, e questi dati ci cominciano a far vedere che stanno diventando fortunatamente sempre più obsoleti. Sfruttiamo internet il più possibile, non solo, qualsiasi mezzo è buono. E niente, velocemente passo ai progetti che stiamo un attimino recentemente portando avanti, alcuni da definire, alcuni da cominciare, molto molto interessanti. Allora, il primo, proprio questa domenica, come avrete letto il comunicato della homepage del sito Zeitgeist Italia, avremo un definitivo incontro, si spera definitivo, e anzi deve esserlo assolutamente, con un esponente politico di nome Salvatore Proto, il quale si fa avanti con un'offerta per alcuni molto, molto importante, sinceramente lo è anche per me, ma da definire su tanti aspetti, ed è quello di esporci in una sede parlamentare per elencare le nostre tematiche e progetti in modo da arrivare a più persone. Abbiamo appena parlato proprio di questo 5 secondi fa, e quindi tutti voi sicuramente approverete la cosa, no? Ci sono tante cose importantissime da chiarire. L'invito può essere un'occasione importantissima da sfruttare, certo, però ricordiamoci i tanti aspetti negativi e soprattutto non ben definiti negli accordi iniziali, fatti disastrosamente, cioè fatti cominciati ma non finiti poi dall'ultimo incontro fatto proprio con Salvatore, che anzi è stato anche offeso, e mi sono anche scusato mandandogli una mail perché non ritengo giusto anche il comportamento di quell'ultimo incontro. E niente, cercheremo di fare questo incontro considerando ciò che abbiamo sempre portato avanti, cioè l'idea comunque di non assolutamente accettare richieste o compromessi di loghi o qualsiasi altra cosa. Dovremo fare attenzione, imporre nettamente le nostre regole, e esattamente esporre le nostre condizioni. Se non vengono accettate, non penso che si porterà avanti questa offerta, perché c'è il rischio proprio di entrare in un contesto che, lo sappiamo tutti, è molto ipocrita, molto falso, non c'entra assolutamente niente con quello che vogliamo, con l'idea che vogliamo portare avanti noi, ecco, assolutamente. Quindi saremo domenica 15, faremo proprio questo podcast, dovremo moderarlo io, e inizialmente lo svilupperemo proprio in 90 minuti, dove Federico parteciperà, comincerà lui un approccio amichevole, per carità, con Salvatore, ascolteremo definitivamente le richieste quali sono, cercheremo di fare inizialmente, lasciar scorrere proprio Salvatore, che è quello che ci fa la proposta, e per questione anche di rispetto anche colui che ha fondato il movimento Zatkes. Quindi sarà inizialmente un confronto tra loro due, per poi passarlo anche ad alcune domande nostre o chiarimenti nostri. Però certamente deve essere concentrato, e si deve arrivare a una soluzione definitiva, se accettare o no questa proposta. Il secondo progetto, che è veramente eccezionale, è un peccato quasi esserselo se l'ho perso anche questa sera, perché vedo che era in linea prima con i nuovi arrivati, si chiama Jacopo Amistani, ed è praticamente il ragazzo del coordinatore del movimento Open Source Economy in Italia, che domenica si è illuminato sulla soglia di partecipazione, di creare il primo gruppo indipendente che dia l'esempio di come si possa lavorare e costruire un ecovillaggio con tutte le più avanzate tecnologie sostenibili, come l'acquaponica e tantissime altre, tutte open source. Quindi sposiamo pienamente questa idea e questo impegno a divulgare anche questo movimento che sembra che riscontri forte interesse anche all'estero. Il territorio da lui scelto sembrerebbe la zona dove abita, che è Padova, e appunto Jacopo diceva che se troviamo i volontari per costruirla, innanzitutto le persone che ci mettano la volontà di costruirlo e i finanziamenti per farlo, sarebbero molto fattibili sia in Italia che all'estero, perché ci sono molte persone interessate a finanziare un tale progetto che mette finalmente in pratica ciò che divulghiamo e comunque non solo noi, ma tantissimi altri movimenti si incominciano a orientarsi sempre di più sull'open source e sulla sostenibilità, per fortuna. E anche molti imprenditori che vogliono cominciare a sviluppare questi progetti. Quindi sicuramente è solo una questione di numero di persone a livello fisico che purtroppo dovrebbero fare un'opera di volontariato, quindi non è facile trovarli in numero, in quantità molto, molto alte per fare queste opere che insomma richiedono un certo numero di persone. E niente, non so se voi avete il suo contatto Facebook, comunque io adesso ve lo posto sulla chat, è una pagina Facebook, un attimino. E poi per finire, ragazzi, c'è un attimino da seguire il discorso dei ragazzi di Firenze, molti di voi sapranno del documento in elaborazione del gruppo toscano, in particolare del gruppo di Firenze, che sta lavorando per creare nel 2012 il prossimo evento del movimento Zeitgeist insieme ad altri movimenti che verranno a partecipare in collaborazione proprio con noi a Firenze. La data è ancora da decidere, alcuni dicono dubito per aprile-maggio, altri passano, slittano direttamente dopo il Ferragosto, quindi a settembre. Di tempo ne abbiamo e chiunque volesse aiutarli in tempo reale, controllate il calendario dei podcast, il calendario anzi di Google Calendar del sito e controllate serialmente quando partecipano proprio per questo documento che stanno sviluppando per dargli anche una mano. Io ho partecipato, mi sembra di averli trovati una volta un venerdì sera, perché non hanno un giorno fisso, diciamo, non hanno una giornata, almeno che sappia io, ecco, correggetemi se sbaglio, una giornata fissa di ritrovo, ma molte volte li troviamo anche in una giornata qualsiasi, che può essere un mercoledì anche alle 8 di sera, come può essere un venerdì a lunedì di sera, dipende. Insomma, chi vuole, ecco, soprattutto il gruppo di Verona, che ha molta esperienza proprio in questo contesto qua, in questo modo di organizzare eventi, perché ha dato proprio la dimostrazione a Verona, sicuramente col contributo di tutti quanti, però il fatto di organizzare, di trovare il cinema, il posto, il teatro, quello che sarà a Firenze e tutto quanto è comunque abbastanza impegnativo. Quindi sicuramente gli ho dato proprio questo esempio ai ragazzi di Firenze, proprio di contattare in primis il gruppo di Verona, proprio per impostare un attimino come fare, come cominciare, ecco, qual è il piede giusto e quali sono le scalette da seguire per non dimenticarsi assolutamente niente. Quindi se qualcuno di voi li becca, dategli una mano, perché è una cosa che insomma fa parte di tutti quanti noi. Il prossimo evento del 2012 da sviluppare, quindi se avete voglia. Io con questo ho concluso l'incontro. Se vogliamo fare degli altri accorgimenti, so che Giovanna c'ha qualcosina da dire. Io concludo qua questo nostro primo incontro e il prossimo sarà a febbraio, la seconda settimana di febbraio. Adesso non ho il dato esattamente sotto mano, però dovrebbe essere martedì 14, se non erro. Va bene, tutto qua ragazzi, grazie per la vostra partecipazione e concludiamo un attimo ascoltando le ultime vostre proposte o chiarimenti o qualsiasi cosa, poi per chi vuole c'è il GDL Nuovi Arrivati, se c'è ancora Jacopo me lo vado ad ascoltare volentieri. Avanti pure. Io volevo chiederti, è possibile ai coordinatori metterci l'icona con la C quando veniamo in Teamspeak per essere riconosciuti dagli altri? Allora, in teoria se crei un canale tu, dovrebbe già dartelo in automatico. Correggimi se mi sbaglio, Sergei, vero? Sì, è Sì, giusto. ma adesso. Sì, questo ok, d'accordo, però se al di là di questo, se per esempio Diana va sul meeting internazionale, a lei viene fuori lo stesso perché lei è coordinatrice, quindi c'è un sistema per farci riconoscere anche all'estero. Non Il dipende dalla fatto è forma. questo, a me viene solo là e non mi viene negli altri canali, quindi non dipende. Cioè, a me è stato assegnato dal team internazionale, non da qualcuno del team nostro, del movimento italiano. Allora, ti dico subito che gli unici che possono fare questa cosa sono tutti quelli che vedete con il mondo, con il pianetino simbolo di Zeitgeist. Lo può fare anche una persona tranquillamente in un altro movimento estero, e così infatti è stato una sera, per casualità, non so il perché, un ragazzo. Il coordinatore, penso fondatore del movimento spagnolo, ci ha proprio creato un secondo canale Italia, che una volta prima del resettamento totale di TeamSpeak, l'aggiornamento che ha fatto, erano due e poi sono diventati uno, non so perché, e ora ne abbiamo di nuovo due, proprio grazie alla creazione. Se utilizzate quello, non so se tutti quanti, però Mas mi può confermare perché c'era quella sera, tutti quelli che c'erano presenti quella sera hanno tutti la C su quel canale. Sì, nell'arco di quella sera sì, poi ho provato a tornarci e non mi appariva più la C comunque, ma non so se era la stessa Italy che aveva creato quella volta o se era un'altra e quindi poi i permessi mi sono spariti, non lo so com'è la storia. Vabbè, chiederemo all'estero per capire come funzioni questa cosa. Federico è il mondo, se non sbaglio. Sì, lui Sì, lo può sì, sì. fare. Beh, magari puoi magari chiedere tu a Federico, allora, Fausto. Ma puoi anche mandargli direttamente una mail tua, non c'è mica problema. Ok, lo faccio a nome di tutti? Ma a nome di tutti, io non ho nessun problema, ce l'ho già sia qui che nel GDL Nuovi Arrivati, quindi io sono a posto, non so gli altri. Ah, vabbè, lo puoi mandare direttamente usando l'indirizzo del gruppo, così anche tutti quanti riceviamo gli aggiornamenti e le risposte. Sì, un'ultima cosa, ho visto, mi diceva Sergei che praticamente il gruppo grafica è, vabbè, insomma, è mezzo sospeso. Se qualcuno in urgenza avesse bisogno di una cosa al volo, dare una mano io che faccio il lavoro. Certamente una propria roba al volo perché sono già impegnato in altre cose, ma insomma. Poi sì, un'altra la questione poi che invece io a cui tengo in particolar modo è il fatto che noi tutti dobbiamo imparare ad esporre no, il nostro movimento, le nostre idee, eccetera, perché è fondamentale. E, a questo proposito manderò a tutti quanti la lettera che è arrivata dal movimento internazionale, perché ci spinge proprio esattamente in questa direzione. Eccolo qua, trovato. L'unica cosa che vi chiedo, se avete modo di modificarlo, non fatelo, fatelo solo esclusivamente quando siete su TeamSpeak con il gruppo di Firenze. Evitiamo discussioni che possono saltare fuori di modifiche non condivise in tempo reale, che non mi sembra neanche giusto, sinceramente. Quindi questo è il documento, intanto se volete dargli un'occhiata, valutare se ci sono delle cose da correggere, poi appena li beccate in linea, ecco, infiltrate dentro e gli date una mano, perché comunque quello lo accettano sicuramente ben volentieri. E niente. Beh, possiamo concludere allora? Ciao! Assolutamente. Ci spostiamo tutti giù, andiamo a fare un po' di compagnia ai ragazzi. Vabbè, dai, okay. È stato un piacere. Allora, io adesso mi devo ricordare di scrivere Giovanna e Daniele, gli altri mi sembra che ci siano tutti. Sergei, non mi ricordo, tu ci sei, non mi ricordo più se ti ho citato, dovrei andare a vedere. Comunque, se non ci sei, al limite, se vuoi, ti posso mettere anche te, come vuoi. Adesso mi aggiungi, poi c'è Alessandra che manca, o potrei venire. Sì, è solo per evitare, sai cosa? La cosa importante è solo per evitare, vabbè, poi a parte che non è poi così un gran sbattimento mandarvi una mail, è più che altro perché quando creo la mail, capito, per l'appuntamento confermato mensilmente, automaticamente arriva a tutti quanti, quindi siccome delega a te, magari come vuoi, se vuoi ti scrivo e ti arriva direttamente anche a te, poi ti metti d'accordo con Alessandra, o altrimenti Alessandra, se non può, ti mando una mail e poi o a te o a qualcun altro decide. Non so, dimmi tu, se vuoi ti aggiungo. Allora aggiungimi, quale mia mail hai tu? Potresti dirmela? Te lo dico subito, perché mi sembra infatti di averne due. Usa quella di Hotmail, la scrivo anche qui in chat.